mio. N I O. Nona, nona, avanguardia, nona, nona, nona, avanguardia. Sole dentro e mosso sacro su sti BPM. Vedo sette cuffie nelle orecchie, fumo dentro casa come Bender. Dopo la nebbia e la tempesta, più chiaro sai. Ora il male mando Kiss come Starchai. Metto a morte Mordor, la sua competizione. Gli ho detto che rimarrò in piedi fino a che non muore. Già mi ha toccato troppe volte con le mani sporche. Di catrame ruggine, la voce tra persone stupide. Non mando suppliche, se tu sei su di me. Basta che il flusso non rallenta senza su di te. E sai che è strano, dopo anni ti avvicini piano piano, forse anche più amaro metterti da parte in armadio. Dipende se mi senti, ci rivediamo e menti. È meglio se ritorno con morte, Billy e Mandy. Ma mi diverto di più a stare con la mia più. Se sulla traccia batte io, tutto il sul più. Me, oh, see on the shit in town. Me, oh, the world are coming down. Me, oh, see on the shit in town. Me, oh, the world are coming down. Come batte Neo sulla base, come batte Neo sulle strade. Neo che batte forte ma così forte anche nella casa di Ade. Questa roba di notte qua la vita ti impara. Sarebbe nel conto posto anche se con una gara giochi con polvere di flow. Ma divento Sahara, fa la tua vita tipo blow. Ma è diversa la trama e TikTok sa che in macchina ha 200.000 kg di idroponica. Tipo Black in action, c'ho stile più pesante che fa buchi prezzo. Ma lui è detto, sai come faccio. Reggi questa botta ma col flow ti ammazzo. Neo Formula 1 non c'è stile per nessuno. Con le rime che ti chiudo capito l'andazzo. E come batte Neo? E come batte Neo? E come batte Neo? Come batte Neo sulla base? Neo che batte forte! Batte forte! Giochiamo con la vita con i dadi a Monopoli. Ma lui che ti manipola da un'altra metropoli. Già fatto tre palazzi con la loggia per due. Qua c'è loggia per due, per la loggia P2. E ti imbocca like, lo so che lo fai. Ti danno la pistola e mai paura del botto. Ma se carica ancora si accavalla quel colpo. Col tempo che hai perso caricato una combo. Boom. Gioco con gli altri e la social network. Rivoluziona che è questo il tempo. L'Italia funziona se alto il reddito. Allora non merito nessun merito. Blade Runner, Ghost Hunter. Qua nella savana no Discovery Channel. Provalo anche tu, tira fuori le palle. Non avanguardia che spacca le barre. We'll be right back.